falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Ormai quando si parla di calcio, appena usciti dai 90 minuti della partita, i media si soffermano solo su aspetti esteriori: soldi, belle ragazze, auto potenti, gossip, capelli colorati di varie fogge, tatuaggi, eccetera. A noi piace parlare di un altro calcio, ahimè, il calcio in bianco e nero, quello di Carosio, di Paolo Valenti, di Maurizio Barens, un calcio magari meno spettacolare per alcuni, sicuramente più lento, però intanto è un calcio che è stato fondamentale per lo sviluppo del calcio moderno. E poi la storia che raccontiamo oggi parla di un uomo che ha veramente rivoluzionato il calcio con grandi intuizioni tattiche, uno stile di gioco che viene preso a esempio da molti allenatori. Stiamo parlando del Paron, Nereo Rocco. Lo facciamo anche grazie a un ascoltatore, Dario Dalla Corte, che ci ha chiesto di parlare di lui. Buongiorno Dario. Buongiorno, non ci posso credere. Senti, grazie, sono qua. Dario Dalla Corte, provincia di Belluno, e come mai ci hai chiesto di parlare di Nereo Rocco? Io Nereo Rocco l'ho conosciuto quasi per caso, perché ho preso nella libreria di mio padre la biografia di Garanzini. Sì. Sfogliandolo fin dalle prime pagine ho conosciuto un personaggio straordinario che si erge rispetto alla media per aver saputo ottenere risultati straordinari, rimanendo sempre se stesso, sì, avendo sempre un credito enorme nei confronti dei propri giocatori, e ha rappresentato praticamente per me un obiettivo bellissimo, cioè riuscire ad essere se stessi. Sì, pur diventare un numero uno essendo se stessi. Non è semplice. Non ha mai nascosto com'era la persona che beveva la bottiglia di vino al bar, che prendeva il giocatore per un orecchio quando usciva la sera. Avrei voluto vederlo alle prese con Ballotelli. L'abbiamo pensato tutti. Grazie Dario, sei stato gentilissimo e complimenti per il consiglio, buona puntata. Grazie per la trasmissione che mi accompagna tutti i giorni, o in podcast o in diretta. Grazie mille, ciao Dario. Una rosa in un bicchiere, due gerani al davanzale, Trieste floreale. Trieste, il nostro racconto inizia proprio da Trieste. Secondo me una delle più belle città del mondo, una città che nella sua storia ha attraversato momenti di splendore, momenti difficilissimi, oggetto di disputa tra nazioni, di bottini di guerra, città di confine da tutti i punti di vista. Però Trieste è anche la città dove è nato, cresciuto ed è rimasto per tutta la vita Nereo Rocco. Compatibilmente naturalmente alla sua carriera prima di calciatore poi di allenatore, che l'hanno portato a viaggiare in Italia, nel mondo. Nereo Rocco nasce nel 1912 da una famiglia della ricca borghesia triestina. I genitori sono originari dell'Austria, il cognome era Rock. Rock. Gestiscono una macelleria che rifornisce regolarmente le navi in partenza dal porto di Trieste. Negli anni 20, con l'avvento del fascismo, i nomi stranieri diventano sconsigliabili, soprattutto dopo le sanzioni, e quindi arriva il momento di italianizzare il cognome. Da Rock diventa Rocco. E lui è un ragazzone forte, sportivo, gli piace il calcio, anche perché da casa sua si vede il campo dove si allena la Triestina. Organizza tornei tra amici, un giorno qualcuno lo nota, lo convince a giocare sul serio. Così nel 29, a soli 17 anni, esordisce in Serie A, rimane a giocare nella Triestina per 8 stagioni. Poi nel 37 va a Napoli. L'anno successivo, dopo l'esonero dell'allenatore del Napoli, accade un fatto mai visto neanche in quegli anni particolari, diciamo di pionierismo. E il presidente del Napoli era Achille Lauro, un presidente particolare, molto pittoresco, e lui affida la squadra a un ingegnere che si chiamava Amedeo Dalbora e coordina i giocatori, uno per reparto, che diventano i responsabili tecnici della loro parte di squadra. Quindi Nereo Rocco, che è responsabile dell'attacco, diventa in qualche modo sottoallenatore, personal trainer delle punte. Questa è la sua prima occasione per allenare qualcuno. E così si torna a Trieste, perché dopo Napoli, Padova dopo la guerra che interrompe la carriera di calciatore di Rocco, si torna a casa in una doppia veste, giocatore allenatore di una squadra minore di Trieste che si chiama Libertas, però in un'amichevole giocata proprio contro la Triestina e la modesta Libertas riesce a vincere. Il presidente Leo Brunner chiama Rocco e gli chiede di allenare i mitici alabardati, la Triestina. Sono retrocessi in B quell'anno, ma a causa della delicata situazione politica conseguente, insomma, a tutto quello che era successo a Trieste nell'immediato dopoguerra, la squadra viene ripescata e gioca un campionato eccezionale in Serie A da ripescata, arriva seconda alle spalle del grande Torino. Comincio con la mia Triestina nel 48, quando abbiamo cominciato col battitore libero che si chiamava Blason, era un altro battitore libero di oggi, ma sempre un battitore libero. Blason, se non calciava la palla a 80 metri, 40 in aria e 40, non era un buon libero. La figura del libero, un giocatore che gioca in difesa ma senza compiti di marcatura, e Rocco inserisce questa figura che diventerà fondamentale nella storia del calcio per decenni. Pensate solo a Picchi, a Scirea e a Franco Baresi. La palla però allora è scotta, quindi appena arriva verso la sua zona il libero deve sparare via il pallone più forte che può. Rinvii, quelli che adesso si chiamano dispregiativamente alla viva il parroco, però in quel calcio si corre meno di oggi, quindi allontanare il pallone significa allontanare il pericolo e probabilmente rovesciare il fronte e partire all'attacco direttamente dalla difesa. Con questa tattica lui si conquista una certa credibilità dopo la Triestina e la volta del Padova. Sono squadre modeste, eppure Rocco riesce sempre ad arrivare con queste squadre nelle zone alte della classifica. Il presidente del Comitato Olimpico Gioco Calcio per i Giochi di Roma e segretario generale della FIFA ha proceduto al sorteggio. Il sorteggio è stato fatto con due schede messe in un cappello fornito cortesemente da uno spettatore. Il signor Klaus ne ha estratta una, c'era scritto Jugoslavia. Eh sì, sembra una storia preistorica, invece siamo alle Olimpiadi di Roma 1960, semifinale Italia e Jugoslavia viene decisa dal sorteggio, cosa che successe anche nel 68 tra Italia, Russia e gli europei, e lì per fortuna il sorteggio favorirà l'Italia che andrà poi a vincere quell'europeo. Comunque anche in questo caso la Jugoslavia vince, pesca la busta giusta dal cappello di uno spettatore e va a vincere la medaglia d'oro. La nostra nazionale era allenata da un certo Paolo Todeschini insieme a Nereo Rocco. Arriva quarta, però viene apprezzata da tutto il mondo calcistico. È un colpo d'ala perché Rocco, grazie anche al gioco brillante manifestato alle Olimpiadi di Roma, viene chiamato dalla squadra alla quale legherà il suo destino e il suo mito per i successivi 14 anni, il Milan. Il falco e il gabbiano. Siamo arrivati al 1961. Questo triestino coriaceo dall'aspetto possente che si chiama Nereo Rocco è diventato l'allenatore del Milan, una delle squadre più forti del campionato italiano. Dopo aver allenato la Triestina, il Padova, in provincia, con un'area più familiare, ha creato questo tipo di gioco, un gioco capace di ottenere grandi risultati anche con giocatori di livello tecnico non altissimo. Adesso invece arriva a Milano, dove il livello tecnico si alza, però il segreto di Rocco è sempre nello spogliatoio, in uno spirito di squadra che lui riesce a creare ovunque. Lo hanno subito soprannominato El Paron, il padrone, un termine usato in senso di rispetto nei riguardi di un uomo che tratta tutti come un padre, sorridente, gioviale, arrabbiato, inflessibile quando serve, ma sempre con un atteggiamento familiare completamente diverso dai freddi e distaccati allenatori di quegli anni. E non so se sia vero, questa è una cosa mia personale e non la vado a spampanare. Io dico che conosco i miei giocatori 2 ore prima di suo padre. Eh sì, magari la grammatica non è perfetta, ma tutto quello che dice Rocco si capisce perfettamente. Lui è proprio un padre, sa essere burbero quando serve, però ritiene tutti i suoi figli importanti in modo uguale. E con questo spirito i giocatori allenati da Rocco si affidano totalmente ai suoi consigli, accettano le critiche, gli allenamenti sono duri, non dimentichiamo che il sangue triestino di questo omone dalla mascella sporgente lo fa somigliare a un altro condottiero degli anni passati, ben noto, però lo sguardo teso e concentrato lascia spesso lo spazio a un sorriso dolcissimo che rende Nereo Rocco un uomo amato e rispettato dai giocatori, dai tifosi e dai dirigenti. Ho sentito che la chiamano Michelin, perché? No, mi chiamo Michelin perché il Milan mi ha fornito questa tuta un po' ingombrante. Ah, non è per via della pancia? Io non tocco un tasto debole, per favore. È un fare molto rustico, una semplicità che forse oggi sarebbe impensabile nel calcio di oggi. Probabilmente Rocco sarebbe retrocesso a livello di macchietta, invece la sua umanità era senza confine. Oggi magari c'è qualche presidente pittoresco, ma un allenatore ormai è diventato un manager quasi sempre in giacca e cravatta. Lui invece è un uomo che dopo aver smesso di giocare non si è più preoccupato di mantenersi in forma. Ama la buona cucina, ama il buon vino, però lui è così soprattutto perché è il simbolo di un calcio che rimane estraneo ai giochi di potere, alle dispute economiche, alle polemiche sugli arbitri. Lui rappresenta il gioco del calcio come dovrebbe essere, uno sport che diverte, che appassiona, che unisce e non divide. Al Milan Rocco si affianca a Gipo Viani, un'altra figura molto importante nel calcio di quegli anni. E lui come allenatore aveva vinto 2 scudetti col Milan, aveva sfiorato la vittoria in Coppa dei Campioni nel 58, perde in finale ai supplementari 3-2 con il Real Madrid di Puskas e di Stefano, insomma, quindi un risultato incredibile. E si dice che Viani sia l'ideatore di uno schema, il Vianema, è un modulo di gioco che prevede una specie di rimescolamento dei ruoli. Oggi si chiamerebbe il falso 9, cioè il centravanti che retrocede lasciando lo spazio alle ali che convergono al centro. Però insomma dal 61 Viani diventa direttore tecnico del Milan, forma una coppia con Rocco che farà la fortuna dei rossoneri negli anni successivi. Sentite cosa ricorda il centrocampista Lodetti. Mi ricordo che alla prima occasione del mio primo contratto e lui e Rocco mi hanno chiamato per firmare il contratto. Io chiesi allora 3 milioni di lire, no? E lui mi fa: guarda, 3 milioni li devi dare tu a me e a noi che ti facciamo giocare. Se ti va bene te ne diamo la metà, se no domani mattina parte il pullman dell'autostradale da Asiago che va a Piazza Castello Milano, te lo prendi. Ecco, a quel punto lì mi sono spaventato, gli ho detto di sì e sono uscito. Come tutti gli innovatori, il Milan di Rocco non parte bene, prime 5 partite disastrose, tifosi che rumoreggiano, si parla di un atteggiamento troppo difensivo della squadra, perché lui, Rocco, intanto ha raffinato la posizione del libero che non spazza più la palla tra i piedi, perché qui siamo al Milan, bisogna anche giocare bene, si gioca a San Siro, a scala del calcio. Lui comunque rimane al centro della difesa con una difesa diciamo a 5, la chiamano la linea Maginot, anzi lui la chiama la linea Maginot perché i giornalisti cominciano a ribattezzarla Catenaccio, e gli attaccanti rimangono soli davanti in attesa di un'occasione per ripartire, colpire in velocità. È un modulo che si dice sia nato in Svizzera, però adottato subito dal calcio italiano. È un modulo che riceve molte critiche perché è ritenuto poco spettacolare. Poi l'Italia con 5 difensori puri e vince la finale del mondiale dell'82, per esempio. Demo ragazzi, dai, 20 secondi di sto lavoro qua ben fatti. Non so perché che servi, ma va bene. Sono decine le frasi di Rocco passate alla storia, alcune mai pronunciate da lui, ma che diventano leggenda, tutte in dialetto triestino, perché lui è un uomo semplice, un uomo di poche parole, spesso chiede ai giocatori se sono d'accordo con le sue scelte, quasi a sembrare di non essere sicuro di quello che sta facendo, in realtà vuole solo responsabilizzare la sua squadra e non è così poco sicuro, perché poi lui non cambia idea su quello che ha deciso, il suo scopo è diverso. Insomma, è una tattica che funziona perché il Milan sotto la guida di Rocco comincia a vincere e si avvia a conquistare lo scudetto. Il falco e il gabbiano. Stiamo stiamo raccontando la storia di uno dei più grandi allenatori che l'Italia abbia mai avuto, Nereo Rocco, El Parón, un uomo dai modi di fare rudi, campagnoli, che ha però il pregio di creare uno spogliatoio compatto con un ambiente familiare, con un rapporto tra allenatore e giocatori simile a quello tra padre e figlio. Ha lavorato in provincia, ha allenato la Triestina e il Padova, poi finalmente ha approdato al Milan e al Milan ha trovato un giovane giocatore destinato a diventare un simbolo del calcio italiano e dell'estetica del calcio italiano, Gianni Rivera. Senza Rivera il Milan è un altro Milan. Non posso, sono d'accordo, sì, non corre tanto, ma se io voglio avere il gioco, se io voglio avere la fantasia, se io voglio avere dal primo al novantesimo minuto l'arte di sempre di capovolgere una situazione, questa me la dà soltanto Rivera con i suoi lampi, è un genio. Questa era una famosissima intervista, anzi un dialogo tra Rocco e Gianni Brera, ho proprio l'immagine davanti, televisione, bianco e nero, bottiglie di vino come se piovesse davanti a loro, e loro che parlano di calcio in prima serata in televisione, ma parlano di calcio a grandi livelli, insomma. Comunque, torniamo a quel Milan, partenza incerta come sempre, poi il gruppo è forte e compatto e alla fine conquista alla sua prima stagione lo scudetto del 62. E non è che l'inizio di una serie di stagioni in cui la squadra rossonera contende il primato all'Inter, la grande rivale di quegli anni, all'Inter di Herrera, e si dividono in due il palmarès degli anni 60. La Juve per quel decennio sta quasi sempre a guardare. Nel 63 a consacrare definitivamente Rocco nel cuore dei tifosi e di tutta l'Italia c'è la conquista della prima Coppa dei Campioni di una squadra italiana, il Milan, che va a Wembley e batte 2-1 con due gol di Altafini il Benfica di Eusebio. Il Milan ha vinto l'ottava edizione della Coppa dei Campioni. Vedete gli italiani che cercano l'invasione pacifica del campo. Eppure dopo la conquista dello scudetto Rocco lascia inaspettatamente la panchina del Milan, si trasferisce per tre stagioni al Torino, intanto perché aveva un patto d'onore con il presidente del Torino che si chiamava Pianelli, e poi ci sono delle incomprensioni con Viani, perché erano due personaggi che si stimavano molto ma avevano un carattere forte, quindi erano in un certo senso incompatibili, e la separazione del Milan è una parentesi. Rocco a Torino fa bene, ma intanto c'è l'Inter che vince tutto, insomma l'Inter di Herrera. Ma Rocco torna a Milano nel 67-68 e vince subito un altro scudetto con la Coppa delle Coppe. Il gruppo era molto forte, molto compatto, e poi se andiamo a guardare gli schemi di oggi, quelli 4-2-3-1 alla Mourinho, in realtà se pensate a quel Milan lì c'erano quattro difensori fissi, in genere Rosato, Schnellinger, non so, Anquilletti e Malatrasi. Poi c'erano due centrocampisti a cerniera che erano Lodetti e Trapattoni, e poi c'era il 3-1 davanti Pierino Prati e dietro tre signori che erano Amrin a destra, Sormani a sinistra e Gianni Rivera a orchestrare il gioco. In porta Cudicini, triestino come Rocco che arrivava dalla Roma. Insomma, mica tanto difensivista, mica tanto catenaccio. E nell'anno successivo il Milan va al Santiago Bernabéu di Madrid a giocarsi la Coppa dei Campioni contro l'Ajax, squadra che stava per portare in Europa il nuovo calcio totale. Eppure sentite come va a finire. Servito Rivera, passaggio da me, Rivera, ecco lo scambio bello, forse ci siamo, no, troppo tardi, pallone, rete di Pierino Prati, ancora 4-1. Eh sì, il Milan ha la fortuna di incontrare l'Ajax non ancora all'apice, ma comunque lo asfalta con un 4-1 e conquista il diritto di disputare la Coppa Intercontinentale contro gli argentini dell'Estudiantes. Si gioca ancora la doppia sfida a San Siro, il Milan vince con gli argentini 3-0. Poi c'è la partita di ritorno e gli argentini si vogliono vendicare. L'ambiente in cui vogliono tentare la rimonta è molto particolare. Io ho parlato con molti giocatori del Milan di quegli anni, di quella partita, arrivarono con il pubblico che gli buttava caffè bollente. trovarono dei coltelli negli spogliatoi, c'era un giocatore delle Estudiantes che giocava con uno spillone che conficcava nelle reni di uno dei rognoni del Milan. Insomma, una partita impensabile oggi nel calcio delle 30 telecamere, però allora si giocò proprio questo. Sentite prima della partita un dialogo tra Rocco e Walter Chiari. Rocco, come ti va? Il mulo, ti sta bene? Addio Walter! Ciao Rocco, ciao! Com'è il morale dei giocatori? Ma qua abbiamo fatto il giro del campo per prendere i primi fischi. Poi la partita si mette male perché Rivera segna subito, quindi la rimonta è impensabile, gli argentini perdono le speranze e soprattutto perdono la testa, c'è una vera e propria caccia all'uomo, il portiere Poletti dell'Estudiantes verrà squalificato a vita per un calcio a Prati che era già a terra infortunato. E poi c'è Combine, che è un oriundo argentino, gioca nel Milan, viene considerato un traditore e rimedia una frattura al naso, poi a fine partita lo arrestano come disertore perché non aveva fatto il servizio militare, rimane una notte intera in una cella piccolissima assieme al cadavere di un uomo. Il Milan perde, però tutti dicono non lasciamo Buenos Aires se non ci ridate Combin, e Combin esce dall'aereo a Milano con la faccia tumefatta, pieno di botte, e riescono finalmente a portarsi a casa questa coppa che festeggeranno negli studi della Domenica Sportiva ancora con Nereo Rocco. Il cavalier Nereo Rocco, che stava guardando, anzi guardandosi proprio la sua coppa. Era l'ultima cosa che mi mancava nella mia carriera di giocatore e allenatore. Senta, lei ha raggiunto quindi il tetto, cavalier Rocco. Lei ora è così, campione del mondo. Quali altri traguardi si prefigge? Coppe interplanetarie? No, di cancellare tutto e cominciare nuovamente. E cominciare da capo, Scherzavo, io comincio come sogno, perché so che non sarà possibile. Vorrei portare o Triestina a Padova in Serie A, poi chiudere definitivamente. Questo è veramente molto bello, cioè ha pagato i suoi massimi desideri, adesso il suo vero autentico sogno è quello di... Sogno, o Triestina a Padova in Serie A e poi avrei finito. Grazie e anche a nome dei tifosi. Beh, ancora una volta il Paron si dimostra un uomo semplice, non erano gli anni in cui uno vinceva e allora andava al Bayern, al Real Madrid. Vuole riportare il Padova o la Triestina in Serie A, è un uomo attaccato alla provincia, una terra da cui non si è mai voluto separare. Poi in realtà finirà, andrà a Firenze, farà anche il commentatore per la Domenica Sportiva, poi trascorre gli ultimi anni della sua vita a Trieste fino al 20 febbraio del 79, quando Rocco muore dopo una breve malattia, ha solo 66 anni. Con un brivido vi dico che per parlare di Nereo Rocco mi sono collegato con una delle persone che, anche se per un attimo, ha messo in crisi la mia fede interista, perché stiamo parlando di un campione che è andato al di sopra delle bandiere e delle maglie, perfino dei derby. Gianni Rivera, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno. Buongiorno capitano. Stiamo raccontando la storia di Nereo Rocco, la storia di quel Milan, ma in fondo la storia di quel calcio. E Nereo Rocco era circondato da molte leggende, probabilmente alcune nate, come dire, spontaneamente e neanche tutte vere, no? Quella che colpite tutto quello che avete davanti, se prendete anche il pallone, immagino non fosse così. Insomma, la domanda... Esatto, la domanda è: che tipo di allenatore era Rocco, visto da Gianni Rivera? Ma intanto era un uomo che prediligeva il rapporto umano prima ancora che il rapporto tra calciatore e tecnico, quindi questa era la cosa più importante per lui. Creare nello spogliatoio un rapporto umano voleva dire preparare meglio la squadra perché desse tutto quello che poteva quando entrava in campo, quindi era questo il valore che dava al calciatore rispetto, partiva prima dall'uomo e poi è chiaro che parlava anche di calcio, però insomma ci teneva molto al rapporto umano. Ed era, insomma, immagino, data la sua stazza, che non potesse fare esattamente gli allenamenti che facevate voi, ma che tipo di rapporto aveva con la fisicità Nereo Rocco? Cioè, quanto correvate rispetto naturalmente al calcio di allora? Ecco. In genere gli allenamenti delle squadre nelle varie epoche si assomigliano abbastanza, per cui c'è quello che facevamo noi in genere, lo facevano anche le altre squadre, perché c'era una parte di preparazione atletica e poi ovviamente la parte tecnica, per cui questo credo che un po' tutti gli allenatori, chi in un modo, chi nell'altro, ma insomma c'era necessità di creare un atleta oltre che un calciatore. Dunque, uno dei miei ricordi di infanzia più, come dire, indelebili è un titolo della Gazzetta che diceva: Rivera, Conigliaro, Aguirre, Suarez, poi 51 minuti da dimenticare. Lo spiego per i più giovani. E il Milan gioca quella che è rimasta, e lo dice uno che ha vinto 3 coppe intercontinentali da tifoso interista, però la madre di tutte le finali di tutte le coppe intercontinentali è quel Milan Estudiantes, anzi Estudiantes Milan. La racconto ancora per i più giovani: il Milan vince, credo 3-0 se non sbaglio, l'andata San Siro, sì. E poi va in Argentina e trova un clima impensabile oggi, cioè di una violenza terribile. Io mi ricordo, tutti davanti alla televisione eravamo atterriti, il calcio nella schiena a Prati, insomma, ecco, quella finale lì, prima di tutto è vero quello che dico, cioè è la madre di tutte le finali intercontinentali da un certo punto di vista. Beh, direi di sì, intanto è stato un grande successo tornare vivi, perché avevano tutta una cultura diversa dal giocare a calcio. Loro sapevano che 4 gol non ce li avrebbero potuti fare, sarebbero stati troppi, difficilmente in condizioni normali potevano vincere 4-0, quindi hanno creato la peggior condizione ambientale che fosse possibile, aggredendoci, facendo tutto quello che non è che non si potesse nel calcio, non si potrebbe neanche nella vita di tutti. Certo. Sì. E quindi hanno provato così. Poi allora gli arbitraggi erano sempre abbastanza casalinghi, soprattutto sì, perché gli arbitri erano sudamericani. Certo. Poi la FIFA vedeva quella partita come una partita così, non la considerava una cosa particolarmente significativa sul piano delle organizzazioni, e quindi sì, sì. Lasciava un po' perdere. Però è stata l'ultima volta che quella partita si è giocata andata e ritorno, una in Europa, sì. E l'altra in America, perché poi le squadre che sono arrivate dopo, in quel momento era l'Ajax che doveva giocare l'anno successivo, non ha voluto non vollero andare. Quindi si inventarono, certo, la partita unica in campo neutro. Adesso poi l'hanno cambiata completamente. Sì, sì, adesso si gioca sui grattacieli di Abu Dhabi. Si fa un torneo, Allora, esatto. Poi per un po' si è giocato una partita sola in campo neutro. Mi ricordo. Ma ecco, e Rocco, come viveva quella? Cioè, avevate tutti un po' paura, mi sembra legittimo. Ci siamo accorti sul campo che cosa stava succedendo. Era difficile essere preparati, però per fortuna eravamo tutti soggetti ben preparati sul piano psicologico, grazie anche a quanto ci diceva Rocco normalmente, e siamo riusciti a non farci trascinare nella rissa, perché se avessimo accettato la rissa non so se si tornava vivi, perché lì era, forse, esatto, sarebbe finita peggio del Cile del 62, molto peggio, sì. Infatti lì non è poi stata una partita di calcio, insomma, sì. Siamo riusciti a giocare i primi minuti, poi dopo che ho fatto il gol la partita è diventata impossibile, perché per loro era ancora peggiorata la situazione. Certo. Gianni Rivera, l'ultima domanda: il grande Milano viveva un dualismo tra due caratteri, tra due uomini, tra due allenatori, modi di allenare, di vivere sia la vita che la propria immagine pubblica. Sto parlando di Elenio Herrera e il nostro protagonista Nereo Rocco. Erano così diversi o erano due facce di una stessa medaglia? Insomma, erano diversi perché venivano da mondi diversi, però poi sul campo l'allenatore... Ma si detestavano loro o no? No, assolutamente non erano... Ma nel mondo dello sport l'odio non esiste, esiste la rivalità, le contrapposizioni, le diversità... però l'odio non può esserci, perché non si potrebbe vivere se ci fosse l'odio, e uno sarebbe già, partirebbe già male in partenza, cioè sarebbero tutte partite come quella di cui abbiamo parlato. certo. Grazie Gianni Rivera, è stato un onore per me parlarti. Grazie a voi. Ciao, arrivederci. Beh, una storia straordinaria, una storia italiana, una storia di calcio vero e di una grande squadra, qual era quel Milan, lo dico da sportivo. E noi vi aspettiamo con altre storie, vi chiediamo di segnalare via mail al falcoelgabiano@radio24.it una storia che pensate meriti di essere raccontata, oppure seguitemi e interagite con me sul mio Facebook, su quelli di Radio 24, sul sito di Radio 24, insomma se mi cercate mi trovate. Ride la stella al Tebaran.